5C. Ascolta e trasforma. Quel giorno fosti tu a chiedermi un favore. Quel giorno foste voi a chiedermi un favore. Quel giorno fosti tu ad arrivare in ritardo. Quel giorno foste voi ad arrivare in ritardo. Quel giorno fosti tu a concludere la riunione. Quel giorno foste voi a concludere la riunione. Quel giorno fosti tu a completare il progetto. Quel giorno foste voi a completare il progetto. Quel giorno fosti tu a scoprire la verità. Quel giorno foste voi a scoprire la verità. Quel giorno fosti tu a dire una stupidaggine. Quel giorno foste voi a dire una stupidaggine.